Terzo anello ad alta voce. Il processo di Franz Kafka. Era una mattina di pioggia violenta e di vento quando K, corrucciato all'idea della giornata che lo aspettava, arrivò già alle 7 in ufficio per sbrigare almeno un po' di lavoro prima che la visita lo distogliesse da tutto. Era molto stanco perché aveva trascorso metà della notte studiando una grammatica italiana per prepararsi un po'. La finestra alla quale negli ultimi tempi era solito sedere troppo spesso lo attirava più della scrivania. Ma resistette e si mise a lavorare. Purtroppo a questo punto entrò il commesso e lo informò che il direttore lo aveva mandato a vedere se il signor procuratore fosse già lì. Se c'era, lo pregava di passare nel salotto da ricevere dove il signore italiano già si trovava. «Vengo subito!» disse K. Cacciò in tasca un piccolo vocabolario, prese sotto braccio un album dei monumenti civici che aveva preparato per lo straniero e attraverso l'ufficio del vice direttore passò nella stanza del direttore. Era contento di essere arrivato in ufficio così presto e di potersi mettere subito a disposizione, cosa che nessuno si sarebbe sul serio aspettato. L'ufficio del vice direttore era naturalmente ancora vuoto, come nel cuore della notte. Forse il commesso aveva convocato anche lui nel salotto, ma senza successo. Quando K entrò in salotto, i due signori si alzarono dalle profonde poltrone. Il direttore sorrise gentile, era certo molto lieto per l'arrivo di K. Fece subito le presentazioni. L'italiano scosse con forza la mano di K e sorridendo diede a qualcuno del mattiniero. K non capì bene a chi si riferisse. La parola, inoltre, era strana. K ne indovinò il senso solo dopo un po'. Rispose con alcune frasi di convenienza che l'italiano accolse di nuovo ridendo, mentre si passava più volte la mano nervosa sopra i folti baffi grigi-azzurri. Questi baffi dovevano essere profumati. Si era quasi tentati di avvicinarsi e di annusare. Quando tutti si furono seduti e cominciò una lieve conversazione introduttiva, K notò con grande disagio di capire l'italiano solo a tratti. Se quello parlava adagio, lo capiva quasi per intero, ma erano solo rare eccezioni. Il più delle volte le parole fluivano veloci dalla sua bocca e lui scuoteva la testa come se ne godesse. Quando parlava così, finiva con l'impigliarsi regolarmente in un dialetto che per K non aveva più nulla di italiano, mentre il direttore non solo lo capiva, ma anche lo parlava. Cosa che, d'altra parte, K avrebbe potuto prevedere, perché l'italiano proveniva dall'Italia meridionale, dove anche il direttore era stato per alcuni anni. In ogni modo, K riconobbe che la possibilità di intendersi con l'italiano gli era venuta quasi del tutto a mancare, perché anche il francese di questi si capiva solo a stento. Inoltre i baffi coprivano i movimenti delle labbra, la cui vista avrebbe forse agevolato la comprensione. K cominciò a prevedere molti inconvenienti. Per il momento rinunciò a intendere l'italiano. In presenza del direttore, in grado di intenderlo tanto facilmente, sarebbe stata fatica inutile. E si limitò ad osservarlo di malumore, affondato e tuttavia leggero nella poltrona, mentre tirava spesso la sua giacchetta corta di buon taglio. Una volta, alzando le braccia e muovendo le agili mani, sciolte ai polsi, cercò di descrivere qualcosa che K non riuscì a capire, sebbene chino in avanti non perdesse di vista le mani. Infine K, che ormai disoccupato, seguiva solo meccanicamente con lo sguardo il movimento della conversazione, risentì della stanchezza di prima e con suo spavento, ma per fortuna ancora in tempo, si accorse che nella sua distrazione era in procinto di alzarsi, di voltarsi e di uscire. Finalmente l'italiano guardò l'orologio e saltò in piedi. Dopo essersi congedato dal direttore, l'italiano si avvicinò tanto a K che K dovette spingere indietro la sua poltrona per potersi muovere. Il direttore, che certo aveva letto negli occhi di K la difficoltà in cui questi si trovava di fronte a quel modo di parlare italiano, intervenne nel discorso in maniera così accorta e delicata da sembrare che desse solo piccoli consigli, mentre in realtà spiegava brevemente a K tutto quello che l'italiano, levandogli di continuo la parola, gli diceva. K apprese da lui che per il momento l'italiano aveva ancora alcune faccende da sbrigare, che purtroppo disponeva, anche nel complesso, di poco tempo, che non aveva nessuna intenzione di vedere in fretta tutte le cose notevoli, ma era piuttosto deciso, d'intesa si intende con K, cui spettava l'ultima parola, a visitare soltanto il Duomo, però a fondo. Era felicissimo di fare tale visita accompagnato da una persona tanto colta e gentile. Così dicendo si riferiva a K, intento solo a trascurare le parole dell'italiano e ad afferrare rapidamente quelle del direttore. E lo pregava, se l'ora gli era comoda, di trovarsi in Duomo di lì a 2 ore, verso le 10. Per quel tempo sperava di poter essere con certezza già là. K rispose con qualche parola di convenienza. L'italiano strinse la mano prima al direttore, poi a K, poi di nuovo al direttore, e si avviò verso la porta, seguito da entrambi, voltato ancora solo a metà verso di loro, senza però smettere di parlare. K rimase ancora un po' con il direttore, che quel giorno sembrava sofferente in modo particolare. Questi credette di doversi in un certo qual modo scusare con K e disse, mentre stavano confidenzialmente vicini, che in un primo momento aveva pensato di andare lui stesso con l'italiano, ma poi, le ragioni non vennero precisate, si era deciso a mandare piuttosto K. Se a tutta prima lui non capiva bene l'ospite italiano, non doveva confondersi, avrebbe fatto presto a capirlo, e se anche non avesse capito molto, non sarebbe stato un gran male, perché per l'italiano non era poi tanto importante essere capito. D'altra parte, l'italiano di K era buono in modo sorprendente e se la sarebbe certo cavata a meraviglia. Con ciò K fu congedato. Trascorse il tempo libero che ancora gli rimaneva a copiare dal dizionario parole poco consuete di cui aveva bisogno per la visita del Duomo. Il lavoro era noiosissimo. Commessi portavano la posta, venivano impiegati a porre quesiti e, vedendo K occupato, si fermavano sulla porta, ma non si muovevano prima che K li avesse ascoltati. Il vice direttore non si lasciava sfuggire l'occasione di disturbare K entrando spesso, togliendogli il dizionario dalle mani e sfogliandolo chiaramente a caso. Quando la porta si apriva, dal buio dell'anticamera affioravano persino clienti che si inchinavano esitando. Cercavano di richiamare l'attenzione su di loro, ma non erano sicuri di essere visti. Tutto questo si muoveva intorno a K come intorno al suo centro, mentre lui metteva insieme le parole di cui aveva bisogno. Poi le cercava nel dizionario, poi le trascriveva, poi si esercitava a pronunciarle e alla fine cercava di impararle a memoria. Ma la sua buona memoria di un tempo sembrava averlo del tutto abbandonato. A volte gli veniva una tale rabbia contro l'italiano che gli era causa di tanta fatica da seppellire il dizionario sotto mucchi di carte, deciso a non prepararsi più. Ma poi si rendeva conto che non poteva passeggiare muto con l'italiano davanti ai monumenti del Duomo e, ancora più arrabbiato, tirava fuori di nuovo il dizionario. Thank you. Proprio alle 9:30, quando stava per andarsene, fu chiamato al telefono. Leni gli dava il buongiorno e gli chiedeva come stava. Cappa la ringraziò in fretta e disse che non poteva parlare oltre, perché doveva andare al Duomo. «Al Duomo?» chiese Leni. «Ma sì, al Duomo». «Perché al Duomo?» chiese Leni. Cappa cercò di spiegarglielo brevemente, ma aveva appena cominciato che Leni disse: «Ti danno la caccia». Cappa non tollerò una compassione che non aveva né sollecitato né atteso. Si congedò con due parole, ma al momento di appendere la cornetta disse ancora, metà tra sé, metà alla ragazza lontana, che non lo sentiva più: «Sì, mi danno la caccia». A questo punto però si era fatto tardi. Correva quasi il rischio di non arrivare in tempo. Prese un'automobile. All'ultimo momento si era ancora ricordato dell'album che prima non aveva avuto occasione di consegnare e che ora prese quindi con sé. Lo teneva sulle ginocchia e per tutta la corsa vi tamburellò sopra inquieto. La pioggia era diminuita, ma era umido, freddo e buio, nel Duomo si sarebbe visto poco, ma in compenso le lunghe soste sulle pietre gelide avrebbero aggravato l'infreddatura di Cappa. La piazza del Duomo era deserta. Cappa ricordò come già da bambino fosse colpito che nelle case di quella stretta piazza quasi tutte le tende delle finestre erano abbassate. Con quel tempo, a dire il vero, ciò era più comprensibile del solito. Anche il Duomo sembrava deserto. A nessuno naturalmente veniva in testa di entrarvi in quel momento. Cappa percorse le due navate laterali. Incontrò solo una vecchia che, avvolta in uno scialle caldo, stava inginocchiata davanti a un'immagine della Madonna e la fissava. Poi lontano vide ancora un sagrestano zoppicante scomparire in una porta a muro. Cappa era arrivato puntuale. Le 10 erano suonate proprio mentre entrava, ma l'italiano non era ancora là. Cappa tornò all'ingresso principale. Si fermò lì un poco, indeciso. Poi fece un giro intorno al Duomo, sotto la pioggia, per accertarsi che l'italiano non aspettasse a un ingresso laterale. Non c'era da nessuna parte. Forse il direttore aveva frainteso l'ora? Come si poteva d'altra parte capire bene quell'uomo? Comunque fosse, Cappa doveva in ogni caso aspettarlo almeno mezz'ora. Poiché era stanco, volle sedere. Tornò nel Duomo, su un gradino trovò un piccolo straccio, una specie di tappeto. Con la punta del piede lo spinse davanti a un banco vicino. Si avvolse più stretto nel cappotto, sollevò il bavero e si sedette. Per distrarsi aprì l'album, cominciò a sfogliarlo, ma dovette smettere perché s'era fatto così buio che quando alzò lo sguardo non riuscì a distinguere quasi nulla nella vicina navata laterale. Lontano, sull'altare maggiore, brillava un grande triangolo di candele. Cappa non avrebbe potuto dire con sicurezza se le aveva già viste prima. Forse erano state accese solo in quel momento. I sagrestani sono esseri furtivi per mestiere, non ci si accorge di loro. Nel voltarsi per caso, Cappa vide pure ardere dietro di sé, non lontano, un cero alto e grosso, fissato a una colonna. In sé era bello, ma per illuminare le pale, che di solito sono nell'ombra degli altari laterali, era assolutamente insufficiente. Aumentava anzi l'oscurità. Non venendo, l'italiano si era comportato in modo tanto giudizioso quanto scortese. Non avrebbe visto niente. Si sarebbe dovuto contentare che Cappa esplorasse a palmo alcuni quadri con una lampadina tascabile. Per provare l'effetto che se ne poteva ottenere, Cappa si diresse verso una cappella vicina, salì alcuni gradini fino a una bassa balaustra di marmo e, sporgendosi sopra di essa, illuminò la pala con la lampadina. La luce perpetua appesa davanti lo disturbava. La prima cosa che Cappa vide, e in parte indovinò, fu un grande cavaliere nella sua armatura, dipinto al margine del quadro. Si appoggiava alla spada che aveva conficcata nel terreno brullo davanti a sé, dal quale spuntavano qua e là soltanto alcuni fili d'erba. Sembrava intento ad osservare una scena che si svolgeva davanti a lui. Era strano che stesse lì fermo e non si avvicinasse. Forse era comandato a montare la guardia. Cappa, che non aveva visto quadri da parecchio tempo, contemplò a lungo il cavaliere, sebbene dovesse di continuo sbattere le palpebre, poiché non riusciva a sostenere la luce verde della lampada. Quando poi fece scorrere la luce sulle altre parti del quadro, trovò un seppellimento di Cristo di tipo tradizionale, dipinto per di più in periodo recente. Si mise in tasca la lampadina e tornò al suo posto. A questo punto probabilmente era inutile aspettare l'italiano, ma poiché fuori la pioggia cadeva certo a dirotto e nell'interno non era freddo come Kappa aveva temuto, decise per il momento di rimanere. Vicino a lui era il grande pulpito. Sopra il suo piccolo baldacchino rotondo erano semi-inclinate due nude croci d'oro che incrociavano le loro punte. L'esterno della balaustra e il passaggio alla colonna portante erano formati da verdi fronde, tra le quali, in atteggiamento ora vivace, ora tranquillo, spuntavano piccoli angeli. Kappa avanzò sino al pulpito e lo esaminò da tutte le parti. La pietra era stata scolpita con grande cura. Le ombre profonde tra le foglie e dietro di esse sembravano come afferrate e fissate. Kappa infilò la mano in una di quelle cavità e tastò cauto la pietra. Fino a quel momento non aveva saputo nulla dell'esistenza di quel pulpito. A questo punto scoperse per caso, dietro la fila di banchi più vicina, un sagrestano in sottana nera, lunga, a pieghe, che teneva con la sinistra una tabacchiera e lo osservava. «Cosa vorrà?» pensò Kappa. «Sospetta di me, vuole una lancia!» Ma appena il sagrestano si vide osservato, indicò con la destra, fra due dita teneva ancora una presa di tabacco, una direzione indeterminata. Il suo comportamento era quasi incomprensibile. Kappa aspettò ancora un poco, ma il sagrestano non cessava di indicare qualche cosa con la mano e di fare per giunta cenni col capo. «Cosa vorrà?» chiese Kappa piano, in quel luogo non osava chiamare. Ma poi tirò fuori il borsellino e si infilò nella vicina fila di banchi per raggiungere l'uomo. Ma quello fece subito con la mano un gesto di diniego, si strinse nelle spalle e si allontanò zoppicando. Con un'andatura simile a quello zoppicare affrettato, Kappa aveva cercato da bambino di imitare chi va a cavallo. «Un vecchio svanito», pensò Kappa. «Il cervello gli basta appena per il servizio in chiesa. Si ferma quando mi fermo io, resta a spiare se ho intenzione di proseguire». Kappa seguì sorridendo il vecchio lungo l'intera navata laterale, fin quasi all'altezza dell'altare maggiore. Il vecchio non smetteva di indicare qualche cosa, ma Kappa non si voltava di proposito. Quei gesti non avevano altro scopo che distoglierlo dalle tracce del vecchio. Alla fine lo lasciò davvero. Non voleva impaurirlo troppo e neppure voleva, nel caso che l'italiano potesse ancora arrivare, scacciare del tutto quell'apparizione. Quando passò nella navata principale per cercare il suo posto, dove aveva lasciato l'album, contro una colonna attigua ai banchi del coro, notò un piccolo pulpito secondario molto semplice, di pietra nuda, smorta. Era tanto piccolo che da lontano sembrava una nicchia ancora vuota, destinata ad accogliere la statua di un santo. Il predicatore non avrebbe potuto certamente ritrarsi di un passo dalla balaustra. Inoltre, la copertura di pietra del pulpito cominciava insolitamente bassa e si alzava priva sì di ogni ornamento, ma con tale inclinazione che un uomo di media statura non poteva stare lì dritto, bensì doveva rimanere sempre piegato fuori dalla balaustra. Tutto sembrava quasi predisposto per il tormento del predicatore, e non si capiva cosa potesse servire quel pulpito, visto che rimaneva a disposizione l'altro, grande e decorato in modo così artistico. Thank you.